thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. Ciao a tutte, ciao a tutti. Questo è un approfondimento dei nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo in collegamento con una femminista che conosciamo, con lei abbiamo fatto diverse cose nel tempo, che abita a Ventimiglia, prima stava a Bologna, adesso da un po' di tempo sta a Ventimiglia, e proprio con lei vorremmo fare una conversazione, una riflessione in un'ottica femminista su quello che sta succedendo, che è successo lì a Ventimiglia. Ciao, sei in collegamento? Sì, vi sento. Un saluto a tutte. Bene. E un ringraziamento al vostro impegno, siete bravissime e molto costanti. Grazie. E non è una prerogativa del femminismo, che è un po' carsico, come sa. E veniamo subito al dunque, diciamo. Io mi sono trasferita da Bologna a Ventimiglia 3 anni fa. E quindi ho avuto l'opportunità di vedere quello che è successo, che non ci ha colte all'improvviso, perché comunque un flusso di migranti dalla frontiera francese alla stazione di Ventimiglia è stato, direi, costante nel tempo e ha preso un ritmo abbastanza elevato nell'ultimo anno, per cui noi vedevamo queste capannelle di persone che dalla frontiera raggiungevano a piedi la stazione e infatti ci domandavamo anche perché questo giro un po' anomalo, perché in genere ce li aspettavamo dall'altra parte. Ho capito. E poi dopo, con quello che è successo, abbiamo capito che la Francia ha giocato molto su queste questioni di confine, probabilmente ha preservato la bellezza della Costa Azzurra. Ha preso, certo. E quindi diciamo che si collocava abbastanza nella logica fino alle ultime cose che ci hanno portato davanti a quello che conoscete tutte. Adesso la situazione, come si può vedere dai social network e da tutte le persone che si sono interessate alla cosa, è abbastanza migliorata. L'impatto, quello di cui vorrei parlare io, sono tutte le riflessioni che ha sollevato questo disastro, e che per noi si traduce nel disastro di trovarci proprio davanti fisicamente, di guardare negli occhi che la nostra società, con le sue impostazioni, causa in giro per il mondo. Senti, allontana un po' il microfono dalla bocca, perché c'è un rimbombo di fondo. Così va bene? Va bene, sì. Ok. Quindi diciamo che oltre all'attivazione che è stata fatta nei primi giorni, che ripeto adesso è molto più organizzata grazie a tutte quelle forze che di solito si muovono intorno a queste cose, che non sono né lo Stato, né il Comune e nemmeno, credo, neanche le associazioni della Chiesa, perché lì il grande supporto è stato dato dalla Croce Rossa, che infatti ha avuto anche delle questioni con la nostra polizia, preposta al lavoro sporco di normalizzazione, che aveva chiesto un'auto della Croce Rossa per riportare i ragazzi in stazione, facendo se, dicendo che serviva perché c'era qualcuno che voleva rientrare, poi c'è stata la carica. E io ho parlato proprio con l'operatore della Croce Rossa chiedendo ma come va avanti, cosa possiamo fare, eccetera. Fa guardi, stia tranquilla, perché sono abbastanza vecchia, mi danno della signora adesso. Capita anche a me, guarda, non ti preoccupare. Noi di qua non ci muoviamo. Perché soprattutto dopo quello che è successo ieri, perché era proprio il giorno dopo lo sgombro, la polizia ha fatto una mossa che non ci è piaciuta e hanno fatto anche, credo, qualcosa, credo su Repubblica, adesso non mi ricordo perché le notizie si accavallano, dove prendevano le distanze e dichiaravano pubblicamente che le macchine non le mettevano più a disposizione. Quello che si è sentito soprattutto, veniamo alle cose diciamo meno... più informative, poi parleremo anche delle impressioni proprio profonde e da un punto di vista femminista, è che il comune si barcamena con la scusa che non ha competenza per questo tipo di cose, è rimasto molto indietro, insomma, defilato, diciamo così. Con le solite interviste, eccetera, una cosa che ci ha fatto vedere l'assenza di un comune attivo, perché poi le leggi ci danno un casino di giustificativi per quello che non facciamo. Cioè, sì, volendo, certo. Certo, perché per esempio la questione è stata sostenuta, soprattutto nei primi tempi, dalla popolazione, e qui un inciso, io pensavo dopo le ultime elezioni di essere come minimo in una regione a impronta fortemente leghista, e invece la città di Ventimiglia ha risposto proprio bene, cioè c'era la fila per gli aiuti, insomma. Sì, anche questo, infatti. La prova che quando metti la gente in condizione di agire senza costrizione e niente, si risvegliano molte più coscienze di in altre occasioni, insomma, perché è stata veramente una risposta buona quella di una città come Ventimiglia, una città di confine, una città che da un anno alla stazione che ci entri saltando, perché c'erano sempre 50 persone come minimo che dormivano nell'atrio della stazione, con questo flusso di chiusura della Francia, comunque di rimandarli in stazione e fargli prendere altre destinazioni. Quindi non c'è stata una risposta, diciamo, reazionaria di tipo forcaiolo nei confronti dei migranti? C'è stata dalla parte dei francesi, però poca, cioè erano più i francesi che avevano il cartello o vergogna. Ah. E che erano costanti e che comunque si sono attivati con gli italiani, la Croce Rossa. Adesso non mi ricordo di che città, ma è stata splendida, insomma splendida, ha fatto quello che doveva fare come la nostra. Certo. Fermo restando che il ruolo della Croce Rossa è ambiguo, perché ha sempre avuto un ruolo nella gestione dei CIE, dei centri di identificazione ed espulsione, e quindi gli interessi giocano su più livelli, gli interessi della Croce Rossa evidentemente. Quindi queste cose abbastanza reazionarie sono l'onda lunga della Le Pen, vuol dire? Sì. Quelle cose che sai un po', noi che studiamo anche questi fenomeni di razzismo, molto è il narrato, ci sono degli studi eccellenti che quando viene a contatto con la situazione effettiva, un razzismo che in genere non è insito nelle persone, ma è veramente sollecitato in varie maniere, che vanno dai vantaggi economici al giocare su delle personalità anche impaurite, cioè, ci sono degli studi, quindi questo razzismo qui è stato veramente marginale. Dai francesi, gli italiani sì, anche c'è stato qualche, ma non episodi, cioè nelle interviste, credo anche in manifestazione, è stata intervistata una signora che ripartiva con la Manfrina modello Salvini, insomma. Certo, anche se poi nelle manifestazioni, soprattutto quelle, soprattutto il messaggio che passa nei media mainstream è voluto, nel senso scelgono quello che vogliono far passare e via. Certo, queste erano sì interviste, perché poi purtroppo la stampa italiana ultimamente, cioè ultimamente da un bel po', non è più neanche una stampa come eravamo abituati, no, insomma qualche anno fa, quindi non è una stampa di ricerca, non è una stampa appassionata e non hanno neanche forse i riferimenti per la deontologia, perché se no non si spiegherebbero determinate cose che vengono, cioè determinate assenze, presenze della stampa, perché a Ventimiglia c'era un'impianto stabile, credo Mediaset, qualche altra televisione, ma per il resto lì bisognerebbe fare un ragionamento su come è cambiato anche per loro il mondo del lavoro e quanto margine di libertà hanno per fare le cose fatte bene o come tutti per mettere delle pette, dei disastri, insomma. Ma noi diciamo sempre, abbiamo fatto diverse osservazioni nel tempo su questo, che ormai la stampa è di regime, cioè praticamente completamente accodata, e anzi è uno strumento proprio di questo sistema. Certo, questo lo condivido. L'unica cosa che secondo me è utile per riflettere è che se tu, diciamo che la stampa di regime evoca degli scenari che la gente è abituata a conoscere, una stampa di regime, una stampa di censura, eccetera. La modernità purtroppo ha fatto sì che non siano più necessarie queste cose, per cui molto spesso anch'io dico che la stampa è di regime, cioè che stavo dicendo che la stampa non è una stampa libera, non certo, eccetera, perché se si parla di stampa di regime, la maggior parte della gente capisce che vanno in galera i giornalisti, ma non è solo così che si fa una stampa di regime. Certo. Sono le variabili, come noi non siamo schiavi, ma poi alla fin fine… Sì, è un meccanismo di autocensura. Esatto, un'autocensura, una condizione del lavoro che ti danno, se te li danno 20 euro a pezzo… per cui vai a impattare sicuramente, per un po' tieni duro, ma poi dipende da tutte le cose che hai da fare per sopravvivere, per cercare il lavoro dopo, per cui cala la qualità, l'attenzione, e alla fine credo che proprio la prerogativa di questo tipo di regime sia questa interiorizzazione o questo arrivare per vie traverse a dei comportamenti della società che altrimenti costerebbero molto a un livello proprio monetario, cioè se devi tenere controllata una popolazione con questi sistemi spendi molto di meno che in Corea, perché non devi mantenere l'esercito, eccetera, cioè crei delle condizioni per cui tu ti autocensuri, magari ti dispiace anche, ma poi la pratica è quella che ti autocensuri. Certo. La umana. E quindi credo che sia quello che è scattato a Ventimiglia, come è scattato per tutte le cose. C'è comunque un presidio No Borders che ha funzionato benissimo, perché dopo lo sgombero, che è stata diciamo la cosa che ha preoccupato di più, perché era molto chiaro che la polizia italiana non aveva la circolare di comportamento sul tavolo. Certo. Nel senso che tu un giorno andavi, il giorno dopo lo sgombero per esempio, siamo andate e identificavano tutti quelli che si avvicinavano, il giorno dopo addirittura io sono passata che avevo caricato qualcuno di questi ragazzi che dalla stazione andava ad Armanforte al presidio, con la paletta della polizia che mi accompagnava. Ho capito. Poi tu rimani sempre lì perché dipende da che cosa hanno l'ordine di fare e non era molto chiaro, insomma. Dicevo che una cosa, per esempio, da un punto di vista, cominciamo a entrare nel femminismo, la cosa più leggera che ci siamo chieste è che nella domanda di aiuti materiali, perché c'era un'organizzazione che regolava il flusso dei beni che bisognava portare, la cosa che ci ha dato molto fastidio è che il comune non si è organizzato per una cisterna d'acqua, cioè abbiamo fatto una cosa che non facevamo da tanti anni, andare a prendere l'acqua nelle bottiglie di plastica. Ah, certo. E invece bastava una cisterna, cioè anche cose abbastanza semplici, neanche tanto dispendiose, ma ci vogliono delle volontà politiche che poi si va a iscrivere nel più ampio discorso politico istituzionale, che insomma non si dove siano queste volontà politiche. Invece diciamo che la cosa a me ha impattato moltissimo, nonostante comunque mi interessi di queste cose, non sia proprio che dice ah ma guarda c'è questa cosa qui, cioè lo so, si notava prima eccetera, però le riflessioni di presenza sono state diciamo più puntuali. Intanto una riflessione che va a impattare su poi alla fine perché si fa società, cioè perché viviamo in una società e non isolati? Sì, è una, com'è una domanda che ci siamo fatte in tante. Perché effettivamente, cioè quando la domanda è sufficiente che io sia abbastanza a posto con le regole, la sopravvivenza, la sussistenza, gli affetti, eccetera, e poi ogni tanto mi capiti fra capo e coda una cosa così, e come la spiego a quelli più piccoli di me anche, perché poi ti va a impattare proprio sull'idea che hai di te stesso, cioè per quanto uno può essere soddisfatto di una situazione o di carriera o di impegno politico, di quel che ti pare, fatto sta che l'obiettivo primario, che sarebbe quello di rendere perlomeno non terribile l'esistenza su questa terra, è stato fallito, neanche ci siamo passati di fianco, come dire. Certo. E lì lo vedi perché io penso che tutte le persone, sia quelle che la pensano in una maniera, ma credo che anche quelle che si fanno, cioè che seguono un po' l'onda di questa presa razzista che sta venendo su con i leghisti in testa e tutti gli altri che fanno sponda poi, perché finché cominci a parlare di quote, finché cominci a parlare di bombardamenti di nave, non ti poni il problema di che cosa fa l'umanità di questi posti, su cui non è che non abbiamo responsabilità, comunque proprio anche la domanda di dire sì, bombardiamo le navi e poi, e nessuna forza politica lo fa, capisci che è una melma su cui una nave leghista galleggia benissimo. Sì, certo, anche perché noi ci ha colpito tantissimo una cosa, non che ci meravigli, però che nessuno, proprio nessuno, a parte chi fa politica alternativa di rottura eccetera, sia fatta la domanda come mai questo flusso, chi è che ha creato questa cosa? Questi vengono dalla Libia, ma noi cosa abbiamo fatto in Libia? Domanda, com'è da $1 milioni, no? E questo piano viene cassato del tutto, proprio come se, non lo so, fosse un fenomeno improvvisamente naturale che questi hanno deciso di scappare e venire qua. Esatto, che è un po' quello, se metti i ricordi della nostra caccia alle streghe, cioè te certo. Dire che io della chiesa non mi fido perché mi ha bruciato, perché subentrano poi tutte quelle cose, cioè è passato, come dire, una cultura comune che non si guarda al passato e bisogna guardare avanti, cioè tutta una serie di cose che hanno creato le condizioni perché certe riflessioni non vengano più fatte. Noi diciamo, noi abbiamo dato il nome alla trasmissione, i nomi delle cose, per dire che bisognerebbe chiamare le cose col loro nome, almeno cominciare da qua, no? E quindi esatto. Le guerre neocoloniali dovrebbero essere chiamate per quello che sono. Che sono, poi, perché tra l'altro questa cosa che poi secondo me ci sono, cioè il potere ha affinato nel tempo anche questo discorso, come se il passato è una cosa chiusa, cioè il passato delle guerre coloniali non è una cosa chiusa, perché se noi compriamo le magliette a 2 euro... Certo, no no, è vero. Senza produrle, vuol dire che qualcuno le produce, così come è passato quella pacificazione, cioè non è che c'è della gente ricca e della gente povera, c'è della gente che è povera perché c'è della gente che è ricca, che una sì, volta sì. era molto chiaro. Certo. Cioè la torta a seconda di come la tagli, ne mangi molto o ne mangi poca, e non è che possano convivere delle situazioni dove tutti mangiano yours, anzi potrebbero convivere ma con altre organizzazioni, diciamo che abbiamo un sistema che è fatto perché queste abbondanze si risichino sempre di più e succedano delle cose come sono successe a Ventimiglia. Volevo aggiungere un'altra cosa perché comunque è stato molto emblematico, anche tutti, vedo che in televisione tutti i giornalisti si affannano a chiamare Salvini per punzecchiarlo, mettere un po' qui, un po' là. Questa situazione mi ha dato anche l'opportunità di vedere il meccanismo che succede alla gente, cioè è assolutamente inutile dare spazio a Salvini, perché chi non la pensa come lui è già fuori dai giochi e anzi spegne la televisione e non si capacita di questa esagerata pubblicità. Chi invece non potrebbe pensarla come lui risponde, e a Ventimiglia si è visto molto bene, ha delle reazioni umane che tu di fronte a un disastro del genere non è automatico il passaggio verso l'odio. Ho capito. Hai capito? Che sì, sì. Che dice, ah, però se lo sono meritato, però io non li voglio in mezzo, eccetera. C'è sempre il momentino prima di vergogna. Certo. E di allontanamento di un disagio che comunque ti va a impattare a qualche livello, anche se magari a livello cosciente non arriva, perché poi ci sono tutti i meccanismi di autodifesa, perché ti dovresti veramente chiedere tante cose. Ti dovresti fare le domande e darti delle risposte. Le domande che tendenzialmente già sono difficili se non c'è una collettività che le sollecita. È molto più semplice, cioè io ho visto, la reazione è stata quella a Ventimiglia, cioè comunque uno, adesso non dico la pensasse, si ponesse nei confronti di questi argomenti, da quelli dell'albergo a 5 stelle a quelli siamo tutti fratelli, comunque si è arrivata un'ondata di disagio a tutti, su cui le reazioni si sono poi calibrate a secondo dei saperi. Quindi è molto facile, per questo dicevo, se magari ascolta qualche giornalista, di non dare, lasciare che la gente si faccia delle opinioni sue, senza avere subito l'escamotage di dire, beh, lo dicono anche in televisione che bisogna rimandarli a casa, io non ci penso più. Ma allora i giornalisti che sono al servizio di, è chiaro che lo fanno in maniera strumentale, no? Perché se uno cominciasse a pensare con la propria testa, magari arriverebbe a delle conclusioni diverse. Diverse, sì, comunque insomma se ascoltano, il suggerimento è di lasciare alle coscienze delle persone perché questi ragionamenti, perché comunque razionano sempre molto meglio che gli altri livelli o i livelli che oggi si chiamano insomma di cultura, di informazione eccetera, perché comunque è anche una questione di tempo, non a caso noi viviamo in tempi ristrettissimi dove ci difetta proprio la possibilità di avviare delle riflessioni, le riflessioni necessarie di fronte a un fracco di cose. L'altra cosa, dunque, per entrare un po' più nell'ambito femminista, è che sono quasi tutti ragazzi grandi, cioè vanno credo dai 16 ai 25, massimo 30 anni, quelli che si sono stanziati sugli scogli per avere questa visibilità e cercare di risolvere la situazione, perché comunque non vogliono mica niente, vogliono andare da quelle due o tre possibilità di relazione di gente loro che hanno sparsa per l'Europa. Sì, infatti, se una riflette, poi alla fin dei conti è questo, è soltanto sì, questo. È proprio questo, cioè, non è che, infatti, noi avevamo chiesto, ma soprattutto poi, che così mi introduce il mio discorso, per le donne con bambini abbiamo del posto a disposizione, perché poi quella è una riviera di vacanze, per cui si può anche, cioè, e siccome c'è crisi, molti dicevano, beh, vabbè, però prendiamoli su, almeno le donne, eccetera, e non vogliono, cioè, si sentiva anche abbastanza la... Il tema della diaspora, cioè questa è gente che partono insieme, chissà chi arriva, chissà dove arriva, chissà se si rivedono in tempi brevi, e si sentiva molto forte questo, no, stiamo insieme. C'è anche una scena dello sgombero di una famiglia che si tenevano attaccati. Certo. Credo che... E quindi da lì parte la prima riflessione, che è quella... dell'emotività delle donne e dei bambini, che viene usata dappertutto, insomma, le donne e i bambini comunque non sono mai così bastardi come può essere. Sì, no, è chiaro, c'è questa retorica. C'è questa retorica e vorrei un po' consolidarla e un po' sfatarla. Cioè, una donna che ha un bambino lavora moltissimo perché questo bambino, soprattutto in certe zone, ma comunque anche da noi, perché raggiunga in condizioni ottimali l'età adulta. Cioè, io quello che ho visto proprio da femminista, oltre alla gente, ho proprio visto tutta la mole di presenza, responsabilità, tutto quel lavorio immenso che le madri, perché siamo organizzati così, ma che comunque le donne fanno perché le nuove vite si avvino verso delle soluzioni decenti. E lì io non vedevo proprio la persona, io vedevo tutte le speranze, tutte gli escamotage che le donne, soprattutto in certi paesi, mettono in atto per mandare avanti quella che è la vita e che paradossalmente un sistema ha anche fatto diventare la sua ricchezza, la ricchezza umana, cioè che le donne tirano su gratuitamente e che poi vengono usate alla bisogna dai vari capitalismi, e quello nuovo, e quello vecchio, e quello globalizzato e quello non globalizzato, che tutte le volte un sistema si inventa. E comunque quel lavoro lì rimane sempre quello più bistrattato, e che sarebbe quello che invece con un buon riconoscimento potrebbe arginare questa deriva anche stupida, perché poi è la stupidità di certe situazioni, perché lì vedi proprio il contrasto, cioè gente che sta in vacanza, che mangia, che si piglia il gelato, e gente che non ha niente, cioè non è possibile. È molto evidente, stride, insomma. È molto evidente il contrasto ed è sempre più difficile appunto dividersi in quelli che su questi pensieri non aprono la testa, perché è doloroso comunque. Certo. E su quelli che invece vanno sempre, si spingono sempre più in là. Nell'unica cosa che possono fare, perché io non posso prendere Renzi per un orecchio e dire: senti, questi vogliono andare lì, sarebbe semplicissimo, gli fai sto benedetto passaporto di 3 mesi, che è sempre poi un scaricarsi la coscienza, certo, invece poi vanno nel è un buttare fumo negli occhi, perché di fatto i romani lo mettevano per l'Africa, adesso si è capovolto, però puoi fare questa cosa. Quello che puoi fare è agire intorno a te per tenere sempre viva questo tipo di ragionamenti. Cioè... Comunque, senti, mi ha colpito moltissimo questa cosa che hai detto un attimo fa, vedendo queste, diciamo, giovani vite, chiamiamole così, che stanno cercando di trovare, non lo so, una soluzione qualsivoglia, no, al loro futuro, insomma, mi ha colpito molto che ti sia venuto in mente il lavoro e comunque la fatica e comunque quello che c'è stato da parte delle donne, delle madri, delle donne che li hanno portati e le hanno portate fino a quegli anni lì. E quindi sì, questo per esempio è un discorso che passa sempre, cioè non ci fermiamo mai. Questa è una sensibilità, secondo me, tutta femminista, vedere dietro alle persone la fatica delle donne e anche il ruolo che queste hanno, non solo nella nostra società, perché ce l'abbiamo ancora caricato molto più e in maniera molto più pesante di quanto non ci vogliano far credere. Aggiungo perché non, sì, è un bel problema, comunque questo discorso sulla maternità, soprattutto poi lo sappiamo a livello femminista, dà il fianco a un sacco di cose. Comunque è questo, e tra l'altro venendo qua a Bologna, perché comunque i legami con la città leggermente li ho tenuti, ieri sono andata a un'iniziativa che ha organizzato lo IABASA, dove c'era una comandante, non mi ricordo il nome perché non sapevo dell'evento, eccetera, sono andata lì di tacca, una comandante delle combattenti curde, a cui abbiamo chiesto poi un incontro solo donne, solo con lei, perché c'erano altri rappresentanti all'evento principale. Certo. E comunque sia nel primo intervento, sia con le nostre domande, eccetera, volevo riportare anche la sua voce perché ci ha tenuto a ribadire l'impegno che le donne curde prendono per cambiare questo tipo di cose, per cui noi non ci alziamo più una mattina che vediamo i cadaveri del Mediterraneo dare un inizio come dire, al cambiamento di tutti i tipi di società organizzate in questa maniera bestiale da un punto di vista delle donne. E quello che lei ha detto, dice, noi per fare questo cominciamo da noi, dalle donne, perché noi ci rendiamo conto che abbiamo molte più possibilità e capacità degli uomini di operare un cambiamento, e questo cambiamento si opera quando cambi te stessa, cioè nel momento in cui tu vedi queste cose e cambi, perché se ti fai attraversare da queste cose cambi, metti in atto dei meccanismi di identità, di autodifesa, dei ragionamenti, degli sconvolgimenti di pensiero che poi vanno a impattare sulla società tutta. E diceva che erano proprio le donne, perché effettivamente, così come arrivano, cioè se un ventenne dall'Africa arriva qua, vuol dire che c'è una madre dietro, perché tutti questi sconvolgimenti nazionali sanno che gli uomini sono assenti. Anzi, poi è anche una fortuna quando sono assenti, perché quando tornano fanno dei danni. E quindi mi è risultato ancora più chiaro da dove deve partire questo ragionamento, perché alla fin fine, senza volerci fare niente, la responsabilità prima è nostra, e quindi su questa nostra prima responsabilità costruire anche un discorso politico, nel senso di dire, oh ragazzi, voi vi fate le guerre, i soldi qua, uno è importante se riesce ad arrivare a fare il presidente del Consiglio, indipendentemente da tutte le sue maturazioni come persone, identità, eccetera, tutto questo discorso di ruoli che alle donne ci sono volute due secoli di roghi perché interiorizzassero che era così, sarebbe ora che incominciassero proprio da loro un cambiamento di ragionamento profondo, anche perché questa comandante ci ha detto che gli uomini non possono perché non lei ha parlato un po' adesso un po' di invidia, un po' del fatto che per esempio a Kobane quando è stata liberata mi ha detto un ragazzo che è stato lì che c'erano 600 donne nell'esercito e 300 uomini. Ah, e gli certo. Uomini si sentono sicuri se c'è un esercito di donne. Ho capito. È chiaro, perché hanno sempre quella visione più ampia di che cos'è una vita, che non si fanno prendere, cioè, gli uomini noi li socializziamo, la prima cosa che in queste società e anche nelle loro si dà in mano a un bambino sono delle armi, e quindi si acquisisce quel senso di gioco e di poco legame che invece le donne hanno proprio per una questione quasi cellulare, perché ci devono fare i conti, sì. Che lo evitino sia che lo facciano. Sai, noi diciamo abbiamo, poi tu sai i discorsi di fondo che facciamo, abbiamo delle perplessità rispetto a queste cose che stai dicendo per un motivo. Perché è chiaro che prendere coscienza di una situazione e delle nostre possibilità è il primo passo, e anche farcene carico, nel senso che nessuno o comunque noi per prime può essere liberato da qualcun altro. Se qualcuna si deve liberare, si può liberare soltanto da sola, e quindi prendendo coscienza e facendosi carico del proprio percorso di liberazione. Noi comunque invece non siamo convinte che un discorso diciamo culturale di cambiamento di te stessa abbia un qualsivoglia modo di incidere, perché siamo sempre state convinte che il discorso culturale è un riflesso del discorso economico e non viceversa. Non è che noi cambiando noi stesse possiamo cambiare un modello economico, è un modello economico che può cambiare l'impostazione sociale, per cui questa cosa diciamo rispetto alle donne, noi siamo convinte per esempio che il femminile è una costruzione sociale, e quindi le positività che tu riconosci al femminile non sono naturali fra virgolette, ma sono ormai da secoli stratificate, perché è questo che ci hanno chiesto. Certo, allora il discorso è condivisibile tutto, benché ci siano delle speranze, perché anche questa economia sta dando i segni di quanto è demenziale. Adesso che sia demenziale siamo tutte che sia demenziale siamo straconvinte, e che questo sistema vada abbattuto. Siamo due secondi a recuperare agli obiettivi ben precisi. Certo. Però per esempio nel discorso curdo loro partono da quello che pare, che insomma loro dicono che ha lasciato in eredità e che sta lasciando ancora in eredità Ocalan, che è quello dei diversi, cioè ieri la comandante ha parlato da loro di un sistema patriarcale maschilista che ha avuto origine 10.000 anni fa. Beh, su questo condividiamo, questo lo condividiamo. Certo. E siccome lo sai che a me questi studi, vedere queste possibilità mi interessa, questo sistema, loro stanno mettendo in pratica praticamente quello che facevano una volta le donne, cioè che riuscivano collettare intorno a loro e ai loro valori una società senza prendere la gente per le orecchie, perché è anche dà anche i risultati, cioè non le senti addirittura col discorso di Ocalan e D'Alema noi un po' ci vergognavamo e loro hanno detto ma no, perché i tempi erano quelli, lui non poteva fare altrimenti. Come non poteva fare altrimenti? Però questo è quello che dicono, cioè non troverai mai dei curdi che dicono di un altro che vanno contro, perché effettivamente è anche un meccanismo che presta il fianco a questa estrema conflittualità di tutti contro tutti che conosciamo nelle nostre società, quindi loro si sono un po', si attengono un po' a quello. Adesso un ragazzo che è stato lì, ho avuto occasione di vedere, perché poi la Liguria ha risposto molto bene, sono saltate fuori delle realtà molto interessanti anche lì, e anche più interessanti magari delle nostre, perché poi insomma hanno delle buone validità. Questo ragazzo diceva che adesso che stanno ripopolando la città, che adesso poi vedremo come va avanti con l'attentato di ieri, però non obbliga, cioè, lì c'è stata una situazione di attacco del Daesh, non chiamiamolo più ISIS, che era la dea della rigenerazione, per favore. Ma è difficile, però. È difficile chiamarlo in altro modo, perché ormai è passata, sì, ormai così. È passata questa cosa, comunque loro lo chiamano Daesh e io mi... Comunque diceva che ritornano anche i latifondisti, perché comunque la società è all'inizio di un cambiamento, anche lì sarà, credo, adesso da quello che so io, una ventina, una trentina d'anni che stanno provando altri sistemi, e non succede come di solito succede, che chi è rimasto a combattere ha una, come dire, una capacità decisionale più grande degli altri, anzi non vengono espropriate le terre anche di chi è scappato, quando torna si trova le sue terre, perché comunque l'esercito dell'autodifesa combatte per proteggere le persone, quindi è lungi da loro ogni idea di conquista o di sistemi che hanno già dimostrato il loro fallimento nella storia dei secoli, anche degli anni recenti, per cui si basano veramente su un sistema di consenso, cioè cercano di spiegare, dire guarda che non è che ti vogliamo espropriare le terre e metterci dell'altra gente, però siamo qua senza case, molte cose sono minate, se metti a disposizione un po' di terra intanto si coltiva, cioè cercano la via morbida, così come non hanno la chiamata militare, ogni combattente curdo se ne può andare quando vuole. Certo, beh, direi che non conviene allargare il discorso su questo piano, perché altrimenti prendiamo strade, anche se sarebbe molto interessante sinceramente confrontarsi, perché questo è un nodo, per cui a noi farebbe molto piacere se un giorno ti andasse di confrontarci proprio su questo tema qua, perché io sto cercando di informarmi magari quando ho qualche dritta in più. Va bene, comunque senti, noi ti ringraziamo tantissimo per questo collegamento, perché noi proprio questo volevamo fare una chiacchierata femminista su come è stato vissuto, sono stati vissuti i fatti di Ventimiglia, e che non si limitasse, che fosse un po' riflesso del nostro sentire, e che non si limitasse soltanto o alla cronaca dei fatti o al discorso diciamo né di propaganda politica né di posizionamento. Volevamo proprio sentire una femminista che impatto ha avuto con una situazione di questo tipo, quindi ti ringraziamo moltissimo e speriamo di risentirci per il discorso, e con un augurio, forse questo lo condividiamo insieme, che le donne comunque per liberarsi devono farsene carico in prima persona. Loro stesse sicuramente, ma poi ci sono degli effetti collaterali benefici. Va bene, grazie tantissime, ciao. A voi e buon proseguimento, ciao. Grazie, ciao, a presto. Ciao a tutti. Never was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone.